La morta e la viva, dalla undicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Ali Cingi. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. La morta e la viva. La tartana, che padron Nino Mo dal nome della prima moglie aveva chiamata Filippa, entrava nel piccolo molo di Porto Empedocle tra il fiammeggiar d'uno di quei magnifici tramonti del Mediterraneo che fanno tremolare e palpitare l'infinita distesa delle acque come in un delirio di luci e di colori. Razzano i vetri delle case variopinte, brilla la marna dell'altipiano a cui il grosso borgo è addossato, risplende come oro lo zolfo accatastato sulla lunga spiaggia, e solo contrasta l'ombra dell'antico castello a mare, quadrato e fosco, in capo al molo. Virando per imboccare la via tra le due scogliere che, quasi braccia protettrici, chiudono in mezzo il piccolo molo vecchio, sede della capitaneria, la ciurma si era accorta che tutta la banchina, dal castello alla bianca torretta del faro, era gremita di popolo che gridava e agitava in aria berretti e fazzoletti. Né padron Nino né alcuno della ciurma poteva mai supporre che tutto quel popolo fosse adunato lì per l'arrivo della Filippa, quantunque proprio a loro paressero rivolti le grida e quel continuo furioso sventolio di fazzoletti e di berretti. Supposero che qualche flottiglia di torpediniere si fosse ormeggiata nel piccolo molo e che ora stesse per levar le ancore salutata festosamente dalla popolazione, per cui era una gran novità la vista d'una regia nave da guerra. Padron Nino Mo, per prudenza, diede ordine s'allentasse subito la vela, si calasse anzi addirittura, in attesa della barca che doveva rimorchiare la Filippa all'ormeggio nel molo. Calata la vela, mentre la tartana non più spinta seguitava a filare lentamente, rompendo appena le acque che, lì chiuse entro le due scogliere, parevano d'un lago di madreperla, i tre mozzi incuriositi s'arrampicarono come scoiattoli, uno alle sartie, uno all'albero fino al calcese, uno all'antenna. Ed ecco, a gran furia di remi, la barca che doveva rimorchiarli, seguita da tanti altri calchi neri che per poco non affondavano dalla troppa gente che vi era salita e che vi stava in piedi, gridando e accennando scompostamente con le braccia. Dunque, proprio per loro? Tanto popolo? Tutto quel fermento? E perché? Forse una falsa notizia di naufragio? E la ciurma si tendeva dalla prua, curiosa, ansiosa, verso quelle barche accorrenti, per cogliere il senso di quelle grida. Ma distintamente si coglieva soltanto il nome della tartana. «Filippa! Filippa!» Padron Nino Mo se ne stava in disparte, lui solo, senza curiosità, col berretto di pelo calcato fin sugli occhi, dei quali teneva sempre chiuso il manco. Quando lo apriva, era strabo. A un certo punto si tolse di bocca la pipetta di radica, sputò e passandosi il dorso della mano sugli ispidi peli dei baffetti di rame e della rada barbetta a punta, si voltò brusco al mozzo che s'era arrampicato sulle sartie, gli gridò che scendesse e andasse a poppa a suonare la campanella dell'Angelus. Aveva navigato tutta la vita, profondamente compreso dell'infinita potenza di Dio, da rispettare sempre, in tutte le vicende, con imperturbabile rassegnazione. E non poteva soffrire lo schiamazzo degli uomini. Al suono della campanella di bordo si tolse la berretta e scoprì la pelle bianchissima del cranio, velata d'una peluria rossigna vaporosa, quasi di un'ombra di capelli. Si segnò e stava per mettersi a recitare la preghiera, allorché la ciurma gli si precipitò addosso, con visi, furia, risa, gridi da matti. «Zinì! Zinì, la gnà Filippa, vostra moglie, la gnà Filippa, viva, è tornata!» Padron Nino restò dapprima come perduto tra quelle che così lo assaltavano e cercò, spaventato, negli occhi degli altri quasi l'assicurazione che poteva credere a quella notizia senza impazzire. Il volto gli si scompose passando in un attimo dallo stupore all'incredulità, dall'angoscia rabbiosa alla gioia. Poi, feroce, quasi di fronte a una sopraffazione, scostò tutti, ne abbroccò uno per il petto e lo squassò con violenza, gridando «Che dite? Che dite?» E con le braccia levate, quasi volesse parare una minaccia, s'avventò alla prua verso quelli delle barche che lo accolsero con un turbine di grida e pressanti inviti delle braccia. Si trasse indietro, non reggendo alla conferma della nuova o alla voglia di precipitarsi giù, e si volse di nuovo verso la ciurma come per chiedere soccorso o essere trattenuto. Viva! Come viva? Tornata? Da dove? Quando? Non potendo parlare, indicava la paratia, che ne tirassero subito l'alzaia. Sì, e come il canopo fu preso a calare per il rimorchio, gridò: Reggete! Lo afferrò con le due mani, scavalcò e come una scimmia a forza di braccia scese lungo l'alzaia. Si buttò tra i rimorchiatori che lo aspettavano con le braccia protese. La ciurma della tartana restò delusa, in orgasmo, vedendo allontanare la barca con padron Nino, e per non perdere lo spettacolo cominciò a gridare come indemoniata a quelli delle altre barchette accorse perché raccogliessero il canapo e rimorchiassero loro almeno la tartana al molo. Nessuno si voltò a dar retta a quelle grida. Tutti i calchi arrancarono dietro la barca del rimorchio, ove in gran confusione padron Nino Mo veniva intanto ragguagliato su quel miracoloso ritorno della moglie rediviva, che 3 anni addietro, nel recarsi a Tunisi a visitare la madre moribonda, tutti ritenevano fosse perita nel naufragio del vaporetto insieme con gli altri passeggeri. E invece no, no, non era perita. Un giorno e una notte era stata in acqua, affidata a una tavola, poi salvata, raccolta da un piroscafo russo che si recava in America, ma pazza, dal terrore. E 2 anni e 8 mesi era stata pazza in America, a New York, in un manicomio. Poi guarita, aveva ottenuto rimpatrio dal consolato e da 3 giorni era in paese, arrivata da Genova. Padron Nino Mo, a queste notizie che gli grandinavano da tutte le parti, stordito, batteva di continuo le palpebre sui piccoli occhi strabi. A tratti la palpebra manca gli restava chiusa, come tirata, e tutto il volto gli fremeva, convulso, quasi pinzato da spilli. Il grido di uno dei calchi e le risa sguaiate da cui questo grido fu accolto, «Due mogli, zinì, allegramente!» lo riscossero dallo sbalordimento e gli fecero guardare con rabbioso dispetto tutti quegli uomini vermucci di terra che egli ogni volta vedeva sparire come niente appena s'allontanava un po' dalle coste nelle immensità del mare e del cielo. Eccoli là, accorsi in folla al suo arrivo, assiepati là, impazienti e vociferanti nel molo, per godersi lo spettacolo d'un uomo che veniva a trovare a terra 2 mogli. Spettacolo tanto più da ridere per essi, quanto più grave e doloroso era per lui l'impaccio. Perché quelle 2 mogli erano tra loro sorelle, 2 sorelle inseparabili, anzi tra loro quasi madre e figlia, avendo sempre la maggiore, Filippa, fatto da madre a Rosa, che anche lui, sposando, aveva dovuto accogliere in casa come una figliola, finché è scomparsa Filippa, dovendo seguitare a vivere insieme con lei e considerando che nessun'altra donna avrebbe potuto far meglio da madre al piccino che quella gli aveva lasciato ancora quasi in fasce, l'aveva sposata onestamente. E ora? E ora? Filippa era venuta a trovare Rosa, maritata con lui, e incinta, incinta da 4 mesi. Ah sì, c'era da ridere veramente. Un uomo, così, tra 2 mogli, tra 2 sorelle, tra 2 madri. Eccole, eccole là, sulla banchina. Ecco Filippa, eccola là, viva! Con un braccio gli fa cenni, come per dargli coraggio. Con l'altro si regge sul petto Rosa, la povera incinta, che trema tutta e piange, e si strugge dalla pena e dalla vergogna, tra gli urli, le risa, i battimani, lo sventolio dei berretti di tutta quella folla in attesa. Padron Nino Mo si scrollò tutto, rabbiosamente. Desiderò che la barca sprofondasse e gli sparisse dagli occhi quello spettacolo crudele. Pensò per un momento di saltare addosso ai rematori e costringerli a rimare indietro per ritornare alla tartana, per fuggirsene via lontano, lontano, per sempre, ma sentì in pari tempo di non poter ribellarsi a quella violenza orrenda che lo trascinava, degli uomini e del caso. Avvertì come uno scoppio interno, un intronamento, per cui le orecchie presero a rombargli e gli s'offuscò la vista. Si ritrovò poco dopo tra le braccia sul petto della moglie rediviva, che lo superava di tutta la testa, donnone ossuto dalla faccia nera e fiera, maschile nei gesti, nella voce, nel passo. Ma quando essa, scioltolo dall'abbraccio, lì davanti a tutto il popolo acclamante, lo spinse ad abbracciare anche Rosa, quella poveretta che apriva come 2 laghi di lacrime i grandi occhi chiari nel viso diafano, egli, alla vista di tanto squallore, di tanta disperazione, di tanta vergogna, si ribellò, si chinò con un singhiozzo nella gola a torsi in braccio il bambino di 3 anni e s'avviò di furia, gridando «A casa! A casa!». Le due donne lo seguirono e tutto il popolo si mosse dietro, avanti, intorno, schiamazzando. Filippa, con un braccio sulle spalle di Rosa, la teneva sotto l'ala, la sorreggeva, la proteggeva e si voltava a tener testa ai lazzi, ai motteggi, ai commenti della folla. E di tratto in tratto si chinava verso la sorella e le gridava: «Non piangere, scioccona! Il pianto ti fa male! Su, su, dritta, buona! Che piangi? Se Dio ha voluto così! C'è rimedio a tutto! Su, zitta! A tutto c'è rimedio! Dio ci aiuterà!» Lo gridava anche alla folla e soggiungeva, rivolta a questo e a quello: «Non abbiate paura! Né scandalo, né guerra, né invidia, né gelosia! Quello che Dio vorrà! Siamo gente di Dio!» Giunti al castello, che già le fiamme del crepuscolo si erano offuscate e il cielo, prima di porpora, era divenuto quasi fumolento, molti della folla si sbandarono, imboccarono la larga strada del borgo già coi fanali accesi, ma i più vollero accompagnarli fino a casa, dietro al castello, alle balate, dove quella strada svolta e si allunga ancora con poche casupole di marinai su un'altra insenatura di spiaggia morta. Qua tutti s'arrestarono davanti all'uscio di padron Nino Mo, ad aspettare che cosa quei tre ora decidessero di fare. Quasi fosse un problema quello da risolvere così, su due piedi. La casa era a terreno e prendeva luce soltanto dalla porta. Tutta quella folla di curiosi, assiepata lì davanti, addensava l'ombra già cupa e toglieva il respiro. Ma né padron Nino Mo né la moglie gravida avevano fiato di ribellarsi. L'oppressione di quella folla era per essi l'oppressione stessa delle anime loro, lì presente e tangibile, e non pensavano che, almeno quella, si potesse rimuovere. Ci pensò Filippa, dopo aver acceso il lume sulla tavola già apparecchiata in mezzo alla stanza per la cena. Si fece alla porta, gridò: «Signori miei, ancora! Che volete? Avete veduto? Avete riso? Non vi basta? Lasciateci pensare adesso agli affari nostri. Casa ne avete?» Così investita, la gente si ritrasse parte di qua, parte di là dalla porta, lanciando gli ultimi lazzi, ma pur molti rimasero a spiare da lontano, nell'ombra della spiaggia. La curiosità era tanto più viva, in quanto che a tutti era noti l'onestà, fino allo scrupolo, il timore di Dio, gli esemplari costumi di padron Nino Mo e di quelle due sorelle. Ed ecco, ne davano una prova quella sera stessa, lasciando aperta per tutta la notte la porta della loro casupola. Nell'ombra di quella triste spiaggia morta, che protendeva qua e là nell'acqua stracca, crassa, quasi oleosa, certi gruppi di scogli neri, corrosi dalle maree, certi lastroni viscidi, algosi, ritti, abbattuti, tra cui qualche rara ondata si cacciava sbattendo, rimbalzando e subito si ingorgava con profondi risucchi, per tutta la notte da quella porta si proiettò il giallo riverbero del lume. E quelli che s'attardarono a spiare dall'ombra, passando ora l'uno ora l'altro davanti alla porta e gettando un rapido sguardo obliquo nell'interno della casupola, poterono vedere dapprima i tre, seduti a tavola col piccino, a cenare, poi le due donne inginocchiate a terra, curve sulle seggiole, e padron Nino, seduto, con la fronte su un pugno, appoggiato a uno spigolo della tavola già sparecchiata, intenti a recitare il rosario. Infine, il piccino solo, il figlio della prima moglie, coricato sul letto matrimoniale in fondo alla camera, e la seconda moglie, la gravida, seduta a piede del letto, vestita, col capo appoggiato alle materasse, con gli occhi chiusi, mentre gli altri due, padron Nino e la gnà Filippa, conversavano tra loro a bassa voce, pacatamente, ai due capi della tavola, finché non vennero a sedere sull'uscio, a seguitare la conversazione in un mormorio sommesso, a cui pareva rispondesse il lento e lieve sciabordio delle acque sulla spiaggia, sotto le stelle, nel buio della notte già alta. Il giorno appresso, padron Nino e la gnà Filippa, senza dare confidenza a nessuno, andarono in cerca di una cameretta d'affitto. La trovarono quasi in capo al paese, nella via che conduce al cimitero, aereo sull'altipiano, con la campagna dietro e il mare davanti. Vi fecero trasportare un lettuccio, un tavolino, due seggiole e quando fu la sera, vi accompagnarono Rosa, la seconda moglie, col piccino. Le fecero chiudere subito la porta e tutti e due insieme, taciturni, se ne ritornarono alla casa delle balate. Si levò allora per tutto il paese un coro di commiserazioni per quella poveretta, così sacrificata, messa così da parte, senz'altro buttata fuori, sola, in quello stato. Ma pensate, in quello stato, con che cuore? E che colpa aveva la poveretta? Sì, così voleva la legge, Ma che legge era quella? Legge turca! No, no, per Dio, non era giusto! Non era giusto! E tanti, il giorno appresso, risoluti, cercarono di far comprendere quell'acerba disapprovazione di tutto il paese a padron Nino, uscito più che mai cupo a badare al nuovo carico della tartana per la prossima partenza. Ma padron Nino, senza fermarsi, senza voltarsi, con la berretta barca di pelo calcata fin sugli occhi, uno chiuso e l'altro no, e la pipetta di radica tra i denti, troncò in bocca a tutti domande e recriminazioni, scattando: «Lasciatemi stare, affari miei!». Né maggiore soddisfazione volle dare a coloro che egli chiamava principali, commercianti, magazzinieri, sensali di noleggio. Soltanto con questi fu meno ispido e reciso. «Ognuno con la sua coscienza, signore», rispose. «Cose di famiglia, non c'entra nessuno. Dio solo e basta». E 2 giorni dopo, rimbarcandosi, neanche alla ciurma della sua tartana volle dir nulla. Durante la sua assenza dal paese, però, le due sorelle tornarono insieme nella casa delle Balate e insieme, quiete, rassegnate e amorose, attesero le faccende domestiche al bambino. Alle vicine, a tutti i curiosi che venivano a interrogarle, per tutta risposta aprivano le braccia, alzavano gli occhi al cielo e con un mesto sorriso rispondevano: «Come vuole Dio, comare! Come vuole Dio, compare!». Insieme tutte e due col piccino per mano, quando fu il giorno dell'arrivo della tartana, si recarono al molo. Questa volta sulla banchina c'erano pochi curiosi. Padron Nino, saltando a terra, porse la mano all'una e all'altra, silenzioso. Si chinò a baciare il bambino, se lo tolse in braccio e s'avviò avanti come l'altra volta, seguito dalle due donne. Se non che, giunto davanti alla porta, questa volta, nella casa delle Balate, rimase con padron Nino Rosa, la seconda moglie, e Filippa col piccino se ne andò quietamente alla cameretta sulla via del cimitero. E allora tutto il paese, che prima aveva tanto commiserato il sacrificio della seconda moglie, vedendo ora che non c'era sacrificio per nessuna delle due, si indignò, si irritò fieramente della pacata e semplice ragionevolezza di quella soluzione, e molti gridarono lo scandalo. Veramente, dapprima, tutti rimasero come storditi, poi scoppiarono in una gran risata. L'irritazione, l'indignazione sorsero dopo, e proprio perché tutti, in fondo, si videro costretti a riconoscere che, non essendoci stato inganno né colpa da nessuna parte, né da pretendere perciò la condanna o il sacrificio dell'una o dell'altra moglie, mogli tutte e due davanti a Dio e davanti alla legge, la risoluzione di quei tre poveretti fosse la migliore che si potesse prendere. Irritò soprattutto la pace, l'accordo, la rassegnazione delle due sorelle divote, senza ombra di invidia né di gelosia tra loro. Comprendevano che Rosa, la sorella minore, non poteva aver gelosia dell'altra, a cui doveva tutto, a cui, senza volerlo, è vero, aveva preso il marito. Gelosia, tutt'al più, avrebbe potuto aver Filippa di lei, ma no, comprendevano che neanche Filippa poteva averne, sapendo che Rosa aveva agito senza inganno e non aveva colpa. E dunque? C'era poi per tutte e due la santità del matrimonio, inviolabile, la devozione per l'uomo che lavorava, per il padre? Egli era sempre in viaggio, sbarcava per 2 o 3 giorni soltanto al mese. Ebbene, poiché Dio aveva permesso il ritorno dell'una, poiché Dio aveva voluto così, una alla volta, in pace e senza invidia, avrebbero atteso al loro uomo, che ritornava stanco dal mare. Tutte buone ragioni, sì, e oneste e quiete, ma appunto perché così buone e quiete e oneste, irritarono. E padron Nino Mo, il giorno dopo il suo secondo arrivo, fu chiamato dal pretore per sentirsi ammonire severamente che la bigamia non era permessa dalla legge. Aveva parlato poco prima con un forense, padron Nino Mo, e si presentò al pretore al solito suo, serio, placido e duro. Gli rispose che, nel suo caso, non si poteva parlare di bigamia perché la prima moglie figurava ancora in atti e avrebbe seguitato a figurare sempre come morta. Sicché dunque, davanti alla legge, egli non aveva che una sola moglie, la seconda. «Sopra la legge degli uomini, poi», concluse, «signor pretore, c'è quella di Dio, ai cui mi sono sempre attenuto, obbediente». L'imbroglio avvenne all'ufficio dello Stato civile, ove da allora in poi, puntuale, ogni 5 mesi, padron Nino Mo si recò a denunziare la nascita di un figliuolo. Questo è della morta. Questo ed ella viva. La prima volta, alla denunzia del figliolo, di cui la seconda moglie era incinta all'arrivo di Filippa, non essendosi questa rifatta viva davanti alla legge, tutto andò liscio e il figliolo poté regolarmente essere registrato come legittimo. Ma come registrare il secondo, di lì a 5 mesi, nato da Filippa che figurava ancora come morta? O illegittimo il primo, nato dal matrimonio putativo, o illegittimo il secondo? Non c'era via di mezzo. Padron Nino Mo si portò una mano alla nuca e si fece saltare sul naso la berretta, prese a grattarsi la testa, poi disse all'ufficiale di stato civile: «E, scusi, non potrebbe registrarlo come legittimo, della seconda?» L'ufficiale sgranò tanto d'occhi. «Ma come? Della seconda? Se 5 mesi fa!» «Ha ragione, ha ragione!» troncò Padron Nino, tornando a grattarsi la testa. «Come si rimedia allora?» «Come si rimedia?» sbuffò l'ufficiale. «Lo domandate a me come si rimedia? Ma a voi che siete, sultano, pascià, bey, che siete? Dovreste aver giudizio, per Dio, e non venire a imbrogliarmi le carte qua!» Padron Nino Mo si trasse un po' indietro e s'appuntò gli indici delle due mani sul petto. «Io!» esclamò. «E che ci ho da fare io, se Dio permette così?» Sentendo nominar Dio, l'ufficiale montò su tutte le furie. «Dio, Dio, Dio, sempre Dio! Uno muore e Dio, non muore e Dio, nasce un figlio e Dio, state con due mogli e Dio, e finitela con questo Dio! Che il diavolo vi porti, venite a ogni 9 mesi almeno, salvate la decenza, gabbate la legge e ve li schiaffo tutti qua, legittimi, uno dopo l'altro!» Padron Nino Mo ascoltò impassibile la sfuriata, poi disse: «Non dipende da me. Lei faccia come crede, io ho fatto l'obbligo mio. Bacio le mani.» E tornò puntuale, ogni 5 mesi, a fare l'obbligo suo, sicurissimo che Dio gli comandava così. Fine della novella La morta e la viva. Registrazione di Ali Cingi. Risca, South Wales, Regno Unito.